brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi è la giornata in cui si commemorano i morti, o perlomeno era tradizione farlo. È una ricorrenza sempre più esorcizzata, sempre meno sentita. In particolare io vengo da una terra in cui il giorno dei morti era il giorno della Fiera dei Morti, che era una delle occasioni di maggiore festività a Perugia. Ma in tantissime tradizioni il giorno dei morti è un giorno in cui si festeggia, si balla sulle tombe, in Messico addirittura fanno questi dolcetti fatti con le calaveras, con piccoli teschi. È una grande festa, è un grande esorcismo nei confronti della morte, ma è pur sempre l'unico giorno in cui la Nera Signora può permettersi che qualcuno la ricordi con diverse gradualità di emozione. La morte ci dà un terrore inoppugnabile, inestinguibile, è un senso di angoscia per quanto noi tentiamo di elaborarla attraverso le religioni, le filosofie, le scienze esatte. Comunque sia, ahimè, rode un pochino a tutti dover lasciare la vita, per quanto dolorosa, per quanto faticosa, per quanto angustiosa sia. Esiste una maniera per trasformare questa giornata, se vogliamo, in questa ora mattutina, in qualcosa che nel pieno, totale, profondo e sentito rispetto per chi ha defunti ancora fortemente legati alla propria emozione, al proprio ricordo, cui ha un doloroso legame, però per trattare la morte nella maniera antica in cui ero abituato a trattarla io, con il sorriso, con la danza, con, se si vuole, anche un leggero sberleffo. Questa mattina vi parto da un esempio preso dalle cronache. I giornali hanno, per una sorta di singolare e anche sinistra casualità, il giorno dei morti tre grandi epitaffi funebri legati a tre donne che, nel bene o nel male, nella gloria o nell'abiezione, nella poesia o nel misticismo, hanno fatto parlare di sé. La prima è la poetessa Ada Merini, che è morta nella giornata di ieri, la poetessa dei folli e dei navigli. Prendo un titolo di giornale che vale come epitafio funebre, cioè come sintesi estrema di quella che è stata la vita di una persona. L'altra è la brigatista rossa Diana Blefari, morta impiccata a Rebibbia. Brigatista si impicca in carcere. Un titolo di giornale in cui non merita nemmeno il nome della defunta, data la doppia accezione negativa in cui è morta. È morta suicida, già i morti suicidi in sé hanno un alone diverso rispetto ai morti di morte naturale, ai morti non volontari. La persona che si autosopprime, comunque sia, nell'accezione religiosa o nell'accezione comunque del sentire popolare, è una persona che non meritava la vita perché ha fatto questo gesto di sopprimerla. Quindi Diana Blefari è brigatista che si impicca in carcere, è cancellato anche il suo nome, una brigatista, una terrorista che si è impiccata. Terzo, dato con minor rilievo o maggior rilievo a seconda delle testate, lo leggo sul giornale: lacrime per la veggente, Natuzza Santa Subito. La terza donna di cui leggiamo l'epitafio funebre è Natuzza Evolo, la veggente calabrese, colei che parlava con i santi, parlava con i morti, aveva un profondo culto popolare tenuto in basso profilo dalle autorità religiose locali, ma comunque se ne parlerà molto di lei, perché era una persona stigmatizzata, veggente, sanguinava durante la settimana della Passione. Ecco, tre donne, tre vite che hanno comunque fatto parlare di loro. Le prime, la Evolo e la Merini, delle vite lunghe, morte in tarda età; la brigatista Blefari, morta in giovane età, in età media, sui 40 anni, morta dopo essere passata la storia per un brevissimo ma intensissimo momento, legata al terrorismo, legata all'assassinio, all'uccisione, legata alla trasgressione delle regole. Beh, voi sareste capaci di sintetizzare la vostra vita in un rapido, veloce epitaffio? Questo è il gioco che facciamo questa mattina. Siccome poi vi annunceremo come e in che maniera è stato raccolto in un libro un divertente elenco di epitafi funebri fatti da persone viventi. Ancora da vivo io sintetizzo in poche parole ciò che vorrei vedere scritto sulla mia pietra tombale. Un esorcismo verso la morte, una maniera per trascorrere attraverso un'ora di spremitura di cervello nel rendere sinteticamente la propria vita questa giornata che altrimenti sarebbe dedicata al pianto, al rimpianto, alle lacrime e alla mestizia. Dopo una vita da precario, ha trovato posto fisso. Aldo 9. Brindate, brindate pure. Tanto comincio subito dall'altra parte. Marco Travaglio. Cambiò vita molte volte. Questa forse è l'ultima. Chiara Belliti. Cambio di residenza. Nuovo indirizzo sergio.romano@inferi.com. Sergio Romano. Sono morto molte volte, ma come questa volta, mai. Marco Baliani. Meglio qui che riunione. È un libro che raccoglie 224 autoepitaffi di italiani celebri non del nostro tempo, edito da Rizzoli, curato da Eugenio Alberti Schatz e Marco Vaglieri. Marco Vaglieri lo abbiamo in collegamento da Oslo. Vaglieri, buongiorno. Buongiorno. Come siete riusciti a convincere persone, qual è stato il primo approccio, a dire mi scrivi in poche righe il tuo epitaffio funebre? Ma è una domanda difficile. Comunque noi abbiamo diffuso una scheda che presentava il libro in cui con una serie di argomenti cercavamo di convincere le persone che questo esercizio potesse essere affrontato con serenità. E io vorrei fare questa cosa questa mattina stessa alla radio, istigando le persone a chiamare all'800240024 e fare la stessa cosa. Come potresti riuscire a convincere, secondo il metodo già collaudato per scrivere il vostro libro, gli ascoltatori a lasciarci il loro epitaffio funebre? Ma nella scheda di invito di cui parlavo prima, diciamo la frase vincente era un po' non lasciare a un estraneo il piacere di scrivere la tua lapide. E questa potrebbe essere già una buona motivazione. E poi se si va in profondo si può pensare che comunque a un certo punto parlare di morte non deve essere più un tabù come quello che è stato fino adesso, insomma. Sì, almeno ci piace culturalmente e a parole dire che sia così, ma in fondo è una cosa che a tutti dà un minimo, un massimo, tantissima o una velata inquietudine. 800240024, allora prendete per buona l'invito del nostro ospite, non lasciate che sia un altro a scrivere il vostro epitaffio funebre, non fate che sia una moglie adirata per una lunga vita matrimoniale di mestizi tradimenti, o sia un marito che comunque si è sempre approfittato di voi, non siano suoceri, genitori, figli ingrati, parenti terrificanti, i vostri colleghi d'ufficio che non vedono l'ora che voi schiattate. 800240024, scrivete qui quello che vorreste vedere scritto sulla vostra lapide. Non andò mai alle Maldive. Mario Monicelli. Ha vissuto male, ma ha vissuto. Renato Vallanzasca. Più in basso di così si muore. Simona Coppa. Invano tentò con passo malfermo di evitare la tomba che lo attendeva, ma inciampò e cadde. Francesco Cossiga. .800240024 sarà dura convincere gli ascoltatori a fare questo gesto. Molti hanno una sorta di pregiudizio nei confronti di tutto ciò che attiene alla ritualizzazione del proprio trapasso. Ricordo in tempi passati che c'era sempre in una famiglia il vecchio zio o il vecchio nonno che comunque provvedeva per tempo alla sua bara. Ricordo che una volta intervistai un signore e la teneva sotto il letto, la teneva lì, l'aveva scelto il legno, l'essenza, il rivestimento interno. Non vi scarnificate le parti basse mentre ascoltate la radio. Compite questo gioiello meraviglioso esorcismo nei confronti di ciò che vi terrorizza, e anche voi componete le brevi frasi che vorreste vedere scritta sulla vostra lapide. Intanto sentiamo qualche particolare da Marco Vaglieri, che ha scritto "Meglio qui che riunione". Ecco, ci sono state persone particolarmente restie a farlo o altre particolarmente interessate delle 224 che siete riusciti a convincere a fare questa operazione? Ma guardi, come è scritto nel libro, a noi è andata, diciamo, molto bene, nel senso che abbiamo solo avuto un personaggio abbastanza conosciuto nel mondo dello spettacolo che ci ha mandato a quel famoso paese, forse è proprio il paese in questione quello di cui parla il libro. Comunque, per il resto abbiamo avuto sempre un genere di atteggiamento molto disponibile. Ecco, il tipo... Se guardando voi poi, facendo una media rispetto a questi epitaffi funebri, la nota dominante, il senso comune più ripercorso in questi epitaffi qual è? Quello di voler sintetizzare in maniera gloriosa la propria vita, di voler ironizzare su quello che si è fatto, si è detto, di lasciare un monito a quelli che ci sopravviveranno? Guardi, per rassicurare anche gli ascoltatori, a mio avviso questo è un libro più sulla vita che sulla morte, perché come dice lei, gli epitaffi, quasi tutti, almeno i nostri, hanno in sé il dono di raccontare della gioia di aver vissuto la vita. Diciamo che è un grande privilegio poterlo fare ancora da vivi, poter ancora da vivi pensare... Ammesso che poi ci siano degli esecutori testamentari così fedeli al nostro volere di scriverlo veramente sulla nostra lapide, poter pensare a quello che sarà l'ultima traccia che lasceremo di noi stessi, perlomeno tangibile. Elisabetta, è arrivato il primo etica. Elisabetta, è pronta? Sì, più o meno. Ma lei ci aveva già pensato prima o gli è venuto in mente questa mattina? Ah, qui ce l'ha già segnato. Prima, è stata una strana coincidenza. Sì, non senta, ma lei si porta sempre... in grembo il bigliettino con scritto il suo epitaffio? No, per carità, io sono anche abbastanza scaramantica, quindi adesso faccio delle corna, insomma. Sì, no, vabbè, faccia quello no. Che vuole, figuriamoci. Ma dove lo tiene questo messaggio? Prima no, per adesso non l'ho ancora affidato a nessuno, quindi faccio questa divulgazione nazionale. Quindi diciamo, lo sapremo in anteprima? Sì, esatto. Spero con molto, molto, molto anticipo, diciamo, rispetto... al momento in cui ma verrà sì, utilizzato. Diciamo che non vorrei dirlo perché non vorrei ingenerare sensi di superstizione, ma farlo questa mattina aiuterà a procrastinare il più possibile la data in cui questo epitaffio venga scolpito dallo scalpellino, certo, sul marmo sintetico della vostra pietra tombale. Allora, Elisabetta, coraggio. Allora, il mio era "Mi trovo qui contro la mia volontà". Ah, bene. Ecco. Quindi lei già prevede di morire ammazzata. No, no, assolutamente, ma comunque io non vorrei mai morire. No, bene. No, Dio, ammazzata, Dio mio, non si può mai dire, ovviamente. Però, così, non è esattamente una prospettiva realistica. Però è molto bello. Quindi la sintesi è che lei non voleva morire. No, no, qualunque momento ciò accada, il fatto di lasciare affetti e la vita in generale mi rattrista molto. Quindi la prospettiva di farlo mi rattrista. E quindi, ecco, in qualunque momento accada e qualunque cosa mi aspetti dopo, vorrei lasciare questo pensiero. Sì, però deve lasciare una scritta, un testamento, qualcosa, perché sennò adesso l'avranno sì. Sentita per radio tutti i suoi parenti. A mio marito l'avevo già detto. Si saranno presi questo appunto, suo marito già lo sa. Sì, a mio marito l'avevo detto, non credo che se lo ricordi, comunque adesso che lo vedo tra poco glielo farò in modo di ricordarglielo. Sì, sì, certo. Diciamo è un escamotage che in molte situazioni in cui si viene colti il flagrante si dice "ero qui contro la mia volontà", quindi suo marito farà tesoro di questo suo epitaffio, trasformerà quello che dovrebbe essere un inno funebre a un inno alla vita. Grazie. Mario, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei si è preparato da quanto tempo? Sono sposato. No, si è preparato questa... No, che è sposato. Ah, no, chiedo scusa. Cosa aveva capito? Separato. Ah, separato. No, preparato. No, in realtà, diciamo, sono un po' fuori tema, come aveva detto alle centraliniste. Perché? L'epitaffio è stato già scritto da mio papà per mia mamma. Ah, però beh, uno di famiglia. Esattamente, sì. Qui suo padre aveva scritto... in italiano non è mai stato un grande, diciamo. Quindi l'aveva scritto per la moglie, il suo padre. Per la moglie, sì. A moglie viva ancora. No. Ah, moglie morta. L'ha scritto all'occorrenza, sì. E cosa ci aveva scritto per la moglie? "Donna, moglie e madre, fonte di bontà, di dolcezza e d'amore. La cosa più bella che mio papà ha fatto nella sua vita". E l'ha fatta quando è morta? risposta, sì. Potrà anche pensarci un po' prima, no? Beh. Senta, lei per sé non ci ha pensato, visto che l'abbiamo chiamata, è in tema. Sinceramente no. Faccia uno sforzo. Ci no, adesso deve farlo. Se lei dovesse sintetizzare la sua vita, dovesse lasciare, per evitare che sia poi sua moglie a pensarci, una sintesi da scrivere sulla sua lapide, quale sarebbe? Diciamo, scriverei: è finita, ma è stata bella. Questo, perfetto, mi sembra bellissimo. Grazie. Sono morto da vivo. Gianluigi Colin. Fui, che volendo è anche un fischio. Valeria Cornelio. Trovò l'inferno nei preti, il purgatorio nei libri, il paradiso nei numeri. Pier Giorgio Odifreddi. Finalmente so cosa c'era dopo, ma non ve lo dico. Chiara Rapaccini. È chiaro che più è rinomato l'estensore dell'epitaffio, più c'è un doppio salto mortale per allungare quella che è la vanagloria della vita, quella che è la lusinga per il successo, anche nell'ultima e mesta sfumatura dell'epitaffio funebre. Cosa che non accade invece per Olindo. Olindo, buongiorno. Buongiorno a lei. Se l'è preparata la lapide? Cioè la scritta? No, io la lapide non l'ho, no, la scritta, vuol dire la scritta, ecco, per la lapide. Però l'ho scritta nel senso che spero che sia più tardi possibile. Certo, perché io ho sempre amato vivere. Farlo questa mattina, guardi Olindo, farlo questa mattina allontana lo spettro dello scalpellino. Lei ci aveva già pensato prima o l'ha fatto perché l'ho chiesto io? No, l'avevo già pensato prima. E allora tiri fuori il bigliettino e sintetizzi. Come? Non ho capito. No, tiri fuori il bigliettino e faccia la sintesi della sua vita. Allora, io sono un abruzzese che vive in Emilia-Romagna e nella vita ho soltanto conosciuto il lavoro e l'impegno, però le garantisco che in qualsiasi momento, anche nei momenti più duri, ho sempre amato tutto quello che mi ha circondato, che mi circondava. E quindi ovviamente ho sempre amato la vita, come si vuol dire. E quindi cosa scrive? Cosa scriverà sulla sua tomba? Ho sempre amato vivere. Ho sempre amato vivere. Vivere, perché sono convinto che vivere è bellissimo, non è affatto brutto. Però scusi, sulla tomba mica può scrivere tutto questo. Ho sempre amato vivere e basta, punto. Punto e basta. Certo, si capisce, no, resto è inutile. No, il resto no. No, perché quando uno è già morto non può dire penso che vivere. No, assolutamente. Ho sempre amato vivere. Ho sempre amato vivere. Grazie Olindo, in bocca al lupo. 800 24 00 24, stiamo elencando gli epitaffi funebri, anzi gli autoepitaffi funebri che ci mandano i nostri ascoltatori. Abbiamo deciso questa mattina, noi commemoreremo tutti i defunti, passati, presenti e futuri, lasciando già nostra limpida e precisa volontà su quello che vorremmo scritto sulla nostra lapide, con la speranza, poi qualcuno ce lo scriverà, ma se anche non ce lo scrive, probabilmente non cambierà a noi molto la vita, visto che la vita ci avrà già abbandonato. Ve ne leggo un po' che ho incollato velocemente su Facebook, che mi sono arrivati via SMS. Guardo raramente gli SMS perché avrei troppe cose da fare mentre parlo, già guardare le telefonate, seguire e rispondere su Facebook, ma questa mattina gli SMS ne hanno mandati tantissimi. Allora, l'ultima cosa che farò sarà morire. Fabio. Epitafio: visse il tempo giusto affinché di lui si ricordasse il bene e non il male. Poi un altro: ve l'avevo detto che stavo male. Un altro ancora: io scriverei torno subito. Samuele da Milano. Epitafio di Piero Nanni di Roma: nessuno mi ha mai giovato, nessuno mi ha mai nociuto, che non abbia puntualmente ricompensato. Poi Leo: mi spiace che non potrò contraccambiare la visita. Andando avanti, non saprei cosa scrivere, ma un messaggio di scuse per i portatori della cassa non mancherebbe. Simone da Ravenna. È un controsenso, i portatori della cassa, una volta che hanno messo la cassa dentro il fornetto, sottoterra, non ne importa più nulla, la lapide resta per chi viene dopo. Ricorregga e rimandi un nuovo epitafio, questo non vale. Fine dell'autonomia, Nicola, avrebbe scritto questo. Qui giace Pier Franco Baraglia, suo malgrado. Un altro vorrebbe scrivere questo. Per apprezzare la morte bisogna vivere, Fabio. Poi il mio epitafio: dispari il mio destino come dell'uno la cifra, Emma. Sibillino ermetico. Poi lasciare scritto: fatto il possibile, Claudio da Udine. Poi per morire prima è indispensabile essere stati viti, Anna da Milano. E quindi andiamo avanti dalla viva voce di Anna, che è un'altra Anna che invece ha il telefono. Anna, buongiorno. Buongiorno. Lei si è preparata? Sì, sì, benissimo, ho studiato. Quindi era già pronta da tempo? Sì, da tempo. L'aveva già scritto io la prima... Io da buona toscana sono anche divertente. Eh beh, questo lasci dire a chi passerà sulla sua tomba, annoiato, con i fiori in mano, con la mamma vicino che deve accompagnare a vedere le zie morte, vedrà la sua tomba e perché dovrà sorridere? Cosa vedrà scritto? Dovrà sorridere perché vedrà scritto: da oggi potete trovarmi qui. Eh beh, interessantissimo. E a chi lo lascia questo messaggio, questo appuntamento estremo? Lo lascio a tutti quelli che nella vita si sono rivolti a me solo quando avevano bisogno. In che senso? Bisogno di soldi, di affetto, di cure? Di tutto, di soldi, di affetto, di cure, di parlare, di qualcuno che le ascoltasse, di... Per ascoltarlo è un sacco di tempo, per parlare sarà un po' più difficile. No, ma loro parlano di solito. Va bene, tutti quelli che vogliono parlare con Anna, dopo che Anna fra 1000 anni ci avrà abbandonato, vanno di fronte alla sua tomba, ci sarà un invito a fare di lei ciò che si vuole perché non potrà più ribellarsi. Luca, buongiorno. Pronto? Sì, spenga la radio, sennò sembra già che c'è l'eco del fantasma, quindi ancora siamo vivi però. Senta, buongiorno. Ecco, lei ha già preparato il bigliettino con la sua tomba, con la sua lapide, diciamo, con la scritta della sua lapide? Sicuramente. Ecco. Visse in attesa della morte, grazie a Dio, arrivò in ritardo. Ecco, perfetto. Si era preparato però da prima, questo perché ha un senso profondo, poetico. Infatti. Ci ho già pensato. Va bene. Ma lo farà scrivere davvero? Lascerà qualcuno questa incombenza? Sì, sì, lo lascio sicuramente. E chi lo lascia? Lei è così frettoloso in una cosa così importante? Ma siccome non sta quando e come, è meglio scriverlo e lasciarlo a chi esiste. Va bene, bocca al lupo, spero che sarà accontentato in questo suo desiderio. Meris. Buongiorno. Buongiorno Meris. Buongiorno a te. Allora, a parte che io vorrei dire che sono terrorizzata della morte. Beh, anch'io, però... che discorsi. Chi dice di non esserlo è un folle. Sì, infatti. Niente, volevo fare sorridere e riflettere allo stesso tempo. Lei l'aveva già solo mi interessa per una mia statistica individuale. Ci aveva già pensato prima o le è venuto in mente questa mattina? No, no, ci avevo già pensato. Nel lungo cammino della mia vita ci avevo già pensato. Io scriverei, mi avevano detto che stavo bene, puntini, puntini, puntini, giusto per far sorridere e riflettere allo stesso tempo. Quindi lei teme anche la malattia? Sì, anche. Vabbè, anche. Può essere anche che uno stava bene e muore lo stesso, passa un tram e lo travolge, un serial killer lo prende come mira. Sì, quindi... sì, ma io la vedo proprio, direi, più come malattia. Ma mica è detto, eh. Sì, vero. I casi possono essere infiniti. Vabbè, comunque, lei vuole lasciare questo monito ai suoi medici curanti che stiano più attenti e individuino tutti i mali segreti che lei pensa di avere, perché sennò avranno l'eterno rimorso di aver scritto sulla sua tomba: mi avete detto che stavo bene, invece sono morta di malattia. Bene, Giuseppe. Pronto? Oh, finalmente, vi state svegliando, vedo che... La scritta sulla lapide è qualcosa che stimola la fantasia. L'argomento è interessante, ma a me personalmente piace molto il paradosso, il gioco dell'assurdo. Lei cosa fa nella vita? Aspetti, lei prima dica cosa fa nella vita, per capire. Consulente tecnico industriale. Consulente, quindi avrà progettato con cura anche il font, la composizione grafica, l'organizzazione degli spazi. Ecco, l'organizzazione è il mio campo. Come di organizzare. Allora, la sua lapide come pensa di organizzarla? Ma è una cosa che ho già pensato, ho già avvertito la famiglia, mi hanno detto subito: ma sei cretino. Ma anche il tipo di marmo, tutto ha scelto? No, quello lascio alla fantasia dei posteri. E magari metto quel marmo schifoso, nerastro. Sì, quello brutto, perché tanto alla fine poi, visto da sotto, non è che sia poi... Sì, tanto è sempre tutto uguale, anche il marmo di Carrara all'interno è brutto. Da sotto è brutto comunque, quindi... Anzi, evitino spese, quei tempi che corrono. Però la scritta la vuole fatta come vuole lei. La scritta, sì, il carattere, anche quello lo lascio alla loro scelta, basta che mi mettano... E dire che ve l'avevo detto, che non mi sentivo troppo bene. Ah, esattamente più o meno come la persona prima. Avete tutti questa idea dello sberleffo nei confronti di chi non si è curato di voi? Sì, bisogna esorcizzarla così, perché prima o poi quando arriva... Sì, ma non è un po' da piagnoni allora, questa lapide? Sopra un po'. Sì, ma adesso io poi non mi permetto. Non è un po' da piagnoni questa lapide? Vi avevo detto che non stavo bene, non vi siete occupati di me. Come se sì, volesse lasciare il rimorso. Eh sì, anche quello è una piccola cattiveria. che bisogna lasciare a qualcuno. Va bene, no? Poi vedo che se c'è una costante, la terza persona che comunque mi segnala questo tipo di lapide, cioè lasciare una sorta di senso di angoscia vindice nella propria famiglia dicendo non vi siete occupati abbastanza di me. Grazie, io leggo anche qualche altro epitaffio funebre che mi sta arrivando su Facebook, ne stanno arrivando tantissimi e meritano anche loro di avere la giusta gloria e il giusto ricordo. Sta ricaricando la pagina, per questo sto perdendo tempo. Ecco, vediamo, ce n'erano di bellissimi. Ecco, Cristiana. A coloro i quali sono stati odiosi con me non darò tregua. A chi mi ha amata, tanti numeri per il Superenalotto, sono stata mite da viva, ma sarò uno spiritello molesto per l'eternità. Questa la conosco, è una callipigerrima ascoltatrice, quindi lascerà molto rimpianto quando morirà. Alberto, ho cercato di essere un uomo. Chi rimane giudicherà già se ci sono riuscito. Di questi tempi è giusto scriverlo sulla tomba, perché l'incertezza su quanto uno sia uomo viene molte volte messa in precario dubbio dalle note vicende di cronaca che stanno appassionando i nostri giornali. Vitalba, non ho mai saputo cosa fosse la felicità, ma qualunque cosa si muove, l'immobilismo è la morte. Quindi per Vitalba la felicità è la dinamica, quindi non rimanete immobili quando siete in contatto con Vitalba, se no rimarrete inchiodati dalla sua lapide tombale. Luigi, il server remoto ha chiuso inaspettatamente la connessione. Ah bella, ecco, l'immaginario informatico che entra anche nel post mortem, il reset totale, lo schermo nero dell'esistenza umana trasformato e messo in correlazione con la metafora informatica, mi piace. Andate avanti in questo filone, intanto sentiamo Enrico. Enrico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Avanti con la sua lapide. Allora, ecco, sul mio epitaffio c'è un po' di ritorno. Vabbè. È quello, perché già si sta preparando al sordo eco della tomba. Oh, che bello. Per forza. Io sul mio epitaffio scriverei, ho provato tutto, ora provo anche questa. Anche questa chi è questa? La salma questa. Accanto? No, come? No, questa che sarebbe la salma che le mettono accanto. Appunto, quella della morte. Ah, perché pensare di provarlo si presume anche che uno possa tornare indietro. Ecco. Eh no, chi la prova mi sa che sì, indietro tornerà nel giorno del giudizio, della resurrezione della carne, ma lo vedo un po' remoto ancora. Grazie. Filippo. Sì, buongiorno. Si autoepitaffi. Sì, io metterei, ma mi piacerebbe potermi permettere di mettere sono stato amore e sono amore. Sono stato amore e sono amore? Sono amore, sì. Ma sembra... ce lo spieghi un po' meglio. Lei la sua vita l'ha passata come amore, è la chiave della sua vita. No, mi piacerebbe passare il resto della mia vita amando e quindi poi proiettarmi in una vita futura, se esiste, e spero esista. Continuando ad amare. Continuando ad amare, sì. Lo so, il rigor mortis... può aiutare, può non aiutare. Comunque, le faccio i migliori auguri di riuscire a realizzare questo suo sogno. Enzo. Sì, buongiorno. Andiamo anche con il suo epitaffio. Allora. Poi devo dare la linea al traffico. Finalmente puntuale. Melog 2.0. Quanta fatica per raggiungere un traguardo alla portata di tutti. Martino Cavalli. Prima muoio. E poi comincio a pensare alla pensione. Franco De Gemini. Cambio l'abito e sono subito da voi. Giulia Nicolai. Torno subito. Silvano Agosti. Non sono nato per sopravvivere. Simone Moro. Allegra, ma non troppo. Sara Marder. 800240024. Sono soffocato da scritte tombali, da epitaffi funebri, da desideri post mortem di vedere sintetizzata la propria vita in poche scarne parole, che però siano di monito per chi rimane, siano di sberleffo per chi rimane e siano anche alimentatrici di senso di colpa di chi non si è ben occupato della nostra vita e quindi è giusto che soffra per la nostra morte. Zeniba Yubaba scrive: volevo essere più o meno quel che sono, ma non ho ancora capito cosa sono. E pensa già di morire senza aver capito, ma gli auguro di capirlo prima, in tempo. Alfredo Saitto, È tutto sul doppio senso del trans, è molto, molto legata alla circostanza spazio-temporale che stiamo attraversando, ma gli auguro di poterla sovrascrivere quanto prima, se no presupponerebbe un legame troppo stretto con una cronaca transeunte. La transmigrazione dell'anima è l'ultima transumanza degli uomini della Terra e quindi transiat. Beh, bella, però vale per qualcuno che muore sti giorni, io spero che non accada questo. Alberto ha cercato di essere un uomo, chi rimane giudicherà se ci sono riuscito. Poi, e adesso muovetevi voi, Antonella, Anna Maria, game over, ecco quelle di tipo informatico. Siamo tutti uguali davanti alla morte, Gaia Volpi in testa. Roberto, ve l'avevo detto che non stavo bene, un altro. Ecco, tutti ce l'hanno con questa cosa di voler far sorgere i sensi di colpa in chi non si è occupato di noi. Ma sentiamo un ospite che già conosce il nostro pubblico, Salvatore De Matteis, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Avvocato, sovrintendente dell'archivio notarile distrettuale di Napoli, autore, ricordate, in piena facoltà, era un libro sui testamenti olografi, ma ha anche scritto... Forza di parlare di lapidi, mi sta venendo una pericolosa tosse. Ho deciso così sia. Ultime volontà di uomini illustri, editore Aliberti. Riporta le ultime volontà di uomini illustri del secolo passato, fra poeti, scienziati, papi, condottieri e re. Se dovesse fare una sintesi e un comune denominatore, gli uomini illustri che volevano lasciare prevalentemente ai posteri come monito e ricordo del loro passaggio. Ah, la loro opera essenzialmente, loro erano molto interessati, la maggior parte sono interessati alla propria opera, qualcuno poi in particolare come Garibaldi o come Pirandello erano particolarmente interessati alla sorte delle proprie ceneri, volevano che fossero trattate in un certo modo, il che non è sistematicamente avvenuto perché i posteri, come dice Don Ramele, non meritano. E cosa volevano Garibaldi e Pirandello? Cosa si facesse? Garibaldi voleva che le sue ceneri che fosse cremato, e invece Garibaldi l'hanno imbalsamato, lo hanno legato addirittura con delle catenelle per farlo stare seduto bello dritto davanti alle autorità e al pubblico che andava a Caprera a visitare la sua salma. E quindi l'hanno reso una specie di pagliaccio. Sì, l'hanno trasformato in una sorta di clown. L'hanno messo... Sì, di clown, se una cosa indegna. Poi Carducci sarebbe da ridire molto. E dopo che ne hanno fatto? Una volta che l'hanno ridisteso è rimasto sempre seduto? Poi no, penso che l'avranno ridisteso, se non altro fa lo sta più comodo. Insomma. Ah, se no dobbiamo fare una bara a forma di quattro, che è difficile. A Pirandello invece è andato anche peggio. Pirandello aveva chiesto che le sue ceneri fossero disperse. Dopo essere stato ovviamente cremato, e invece che cosa fanno? Lo portano al Verano per farlo cremare e poi così, pur trattandosi di Pirandello, guai a chi ne parla male, dimenticano le ceneri di 10 anni al Verano. Poi l'associazione, la Corda Fratres, molto ramificata, riscopre queste ceneri e le rimanda ad Agrigento perché fossero tumulate lì, eccetera, se non che arriva la leggenda dopo una serie di secoli che è abbastanza laborioso da raccontare qua, ma... Beh, una folata di vento, cosa c'è stato? No, là c'è stato semplicemente un finto esegno, l'hanno messo, prima che si cena l'hanno messo una barra di un bambino, quindi la gente probabilmente si sarà chiesto, dice, ma chi sarà questo bambino, perché non ci sono manifesti né niente, eccetera. Sta per entrare in chiesa per fargli avere gli ultimi, diciamo, le ultime attenzioni della chiesa, se non che perché è stato cremato all'epoca non era possibile, non era ammesso alla chiesa, una cosa del genere, la bara sta per entrare, ma poi viene tirata fuori, quindi la gente si incuriosisce ancora di più, diciamo, che cos'è, quindi viene fuori ancora un altro personaggio. Poi la portano finalmente a Surno, la portano al museo, e al museo, così, sempre trattandosi di Pirandello, se le scorda per altri 15 anni. E adesso? 15 giorni. Alla fine, quest'urna dovrebbe essere in uno spuntone di roccia che sta dietro Villa Caos. Ma la domanda che mi faccio, ma siamo sicuri che se quelle cenere messe da un oggetto che siano veramente in quello spuntone di roccia sono ancora quelle di Pirandello? Beh, io ho letto proprio in questi giorni che c'è un'apertura nei confronti di chi si voglia far cremare, però rimane il veto ancora di tenere le ceneri del parente morto in casa o di disperderle nei luoghi mistici dove uno vuole, sul mare, sulle cime delle montagne, nel luogo in cui si consumò il proprio amore, via dicendo. Uno le può farsi bruciare, ma le ceneri devono finire nel posto dove vanno a finire tutti morti. Però questa è una grande lezione voi che state componendo il vostro epitaffio funebre, evitate di lasciare disposizioni troppo esatte sul destino delle vostre ceneri, perché se a Pirandello e Garibaldi è accaduto questo, noi che siamo esseri comuni potremmo perdere il controllo della nostra cenere. Sentiamo Giuseppe da Milano. Giuseppe? Giuseppe? Niente, Giuseppe non ha... Riccardo. Vabbè, Riccardo, parli Riccardo. C'era anche un altro. Buongiorno. Giuseppe. Riccardo, dica. Mio sarebbe, era così avanti che si doveva fermare per aspettarsi ogni tanto. E lei si sente molto avanti? Molto, se no non lo scriverei nel mio epitafio. No, no, avanti, no, ma... un po' incompreso, se vogliamo. Cioè, sente incompreso nel suo essere... Ma guardi, chi ha uno sguardo profetico sulla realtà, va da sé che non sia compreso. Esatto. L'umanità generalmente si rassicura su ciò che è già testato, condiviso e omologato. Vedere oltre fa parte del gioco, essere considerati profeti non capiti e non compresi. Quindi spero che scriverlo sulla sua tomba compenserà la sua esistenza. Luca. Eccomi. Allora, l'epitaffio è: ecco che cosa farò da grande. E cosa farà da grande? Quello che praticamente ormai è destinato dalla mia fine della vita. All'esca la sua tomba, ecco cosa farò da grande. E cosa faccio? Ci metto un... ma bisogna metterci uno spioncino che si veda dentro la barra, perché uno non sa cosa sta facendo lei in quel momento. Sì, però dato che la mia vita l'ho fatta non sapendo ancora cosa farò da grande... Lei dice: da grande sono morto. Sapere. Esatto. Ah, bene, comunque, se vuole, io non mi crogiolerei così su questa certezza, ma cercherei di far qualcosa, però se questo la rassicura, le dà felicità, le dà senso di sollievo, sono felice che qualcuno si prepari con martello e scalpello a scrivere questo sulla sua tomba. Ma visto che per giustizia voglio dare questa chance anche alle persone che ho più vicino nella mia vita professionale, do modo a Fabrizio Intondi e Alessandro Chiappini di lasciare il loro epitaffio. Allora, Alessandro Chiappini scrive: persona pingue amante del cibo, peccato non poter più mangiare. Ma gli ricordo che in alcune regioni d'Italia il giorno dei morti portano cibo sulla tomba dei cari scomparsi, e potrebbe lasciare come ulteriore disposizione di portargli qualche involtino anche sulla sua tomba. Invece Fabrizio Intonti, che è noto nella sua tenuta alla tradizione nelle copule consenzienti, meglio sotto che sopra. Vi saluto, a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Radio 24. La passione si sente.